La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Vi ricordo il numero dei nostri sms 349-238-6666 e cominciamo subito con l'allarme del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un messaggio all'apertura del congresso della CISL. Lo scenario economico e sociale è difficile, dice il Presidente, su questo gravano pesanti effetti della persistente recessione, soprattutto. Il Capo dello Stato sottolinea la drammatica caduta dell'occupazione, specie giovanile. E però purtroppo noi dobbiamo dire che qualcuno invece il lavoro ce l'ha e sono i deputati della Repubblica Italiana, perché questa mattina alla Camera dei Deputati il Ministro della Difesa Mario Mauro ha parlato in un'aula semivuota dell'uccisione del soldato ucciso appunto in Afghanistan, Giuseppe La Rosa. E sentiamo che cosa ha detto Mauro. Questa informativa è quindi stata richiesta per sottolineare l'indispensabilità, a fronte dei gravissimi fatti di cui parliamo, di una presa di coscienza da parte del Parlamento nella sua integrità. Ringrazio pertanto di cuore i deputati che sono presenti e che potranno interloquire col Governo per andare a fondo di questo gravissimo episodio. Ma mi consenta, Presidente, di non poter non sottolineare l'amarezza, e l'amarezza profonda, a fronte di quello che è accaduto, nel vedere quest'Aula vuota. Mi consenta, signor Presidente, di sottolineare come la vita di Giuseppe La Rosa sia quel fatto a cui siamo tutti chiamati a guardare se un po' di più vogliamo comprendere il nostro compito e il senso della nostra missione. A cosa infatti dovrebbe guardare, a chi dovrebbe guardare la politica in Italia, se non a un uomo come Giuseppe La Rosa, per ricomprendere l'ampiezza e la profondità delle proprie ambizioni e la grandezza della vocazione a cui siamo chiamati. E questo era il Ministro della Difesa che, come avete sentito, ha accusato i parlamentari di non essere in aula questa mattina a Montecitorio. Il Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha detto però molti parlamentari in realtà sono impegnati anche nelle commissioni. Comunque non è stato un bello spettacolo. Intanto andiamo subito alla politica. Tiene ancora banco la spaccatura nel Movimento 5 Stelle. Dopo l'attacco della senatrice Adele Gambaro al leader Beppe Grillo, stamattina Vito Crimi ha difeso l'ex comico, dice: chi ha dei dubbi è libero di lasciare. Gambaro stava valutando di entrare nel gruppo misto, poi invece ha detto che non c'entrerà in questo momento e ha anche detto che vuole però pretende le scuse pubbliche da Beppe Grillo. Ma insomma, noi abbiamo chiesto, allora, Beppe Grillo è il problema del Movimento 5 Stelle? È il limite o è invece l'elemento necessario? L'abbiamo chiesto a Carla Ruocco. Beppe Grillo è la forza, è una persona che ha portato senza un soldo, praticamente con pochissime risorse, il movimento a questa crescita esponenziale meravigliosa, e comunque il progetto è un bellissimo progetto che va avanti grazie a lui, grazie a tutti gli attivisti sul territorio, a noi che qui stiamo facendo il nostro lavoro. Io sono in Commissione Finanze, siamo impegnati sul decreto sull'IMU, l'alleggerimento fiscale. Quindi ecco che tutti quanti insieme si lavora in maniera proattiva e costruttiva. Senta, ma ai dissidenti, a quelli che vogliono lasciare il gruppo, lei che cosa dice? Che devo dire ai dissidenti? Ho poco tempo per esprimermi sui dissidenti, nella giornata me ne rimane talmente poco. Buona fortuna, che devo dire? Non mi scalfisco. Ve l'aspettavate? Ma in un progetto che ci sta tutto, che magari qualcuno poi a un certo punto abbandoni il progetto perché non ha la forza, non ha la volontà, non ha la passione sufficiente, non ha la spina dorsale sufficiente. Capito. Ma lei continuerà a difendere Grillo anche quando oppure ogni tanto lo chiama e dice: Beppe, ma guarda, questa cosa io la penso in modo diverso. Io penso che lui sia una persona che ha dato, che dà tanto senza ricevere nulla in cambio, se non appunto a volte ingiurie e questo non è giusto. Quindi io difendo tutte appunto le persone come lui, che rappresentano persone che con passione e impegno vanno avanti, cercano di andare avanti nelle mille difficoltà, lui come tanti. E questo era Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle. Sei sempre troppo critica, mi scrive un radioascoltatore, con il Movimento 5 Stelle un grillino ti ha rubato il fidanzato. No, assolutamente, assolutamente. Invece vedi, con Carla siamo sempre in onda, io e lei sempre in onda. E a proposito, proprio per sedare queste critiche, e non solo, ma per essere assolutamente coerente e criticare tutti, nel PD dovrebbe risultare, no? Le urne è andato tutto quanto bene, e invece ci sono sempre molte anime che si combattono nel travagliato mondo del Partito Democratico. E allora noi oggi siamo proprio andati a fare un po' il pungolo, siamo andati a pizzicare il dissidente per eccellenza, Pippo Civati, l'unico dissidente rimasto. Sentiamo cosa ci ha detto. È quasi l'unica, diciamo, gli altri sono tutti apparecchiati in segreteria, sono tutti schierati, Felice, contenti, renziani, bersagnani, dalemiani, dalemiani bis, perché ci sono i dalemiani per Cupero, i dalemiani per Renzi, è un mondo fantastico, sono tutti insieme. Tutti insieme. E lei perché ha deciso di fare la voce fuori dal coro? Perché non mi sento di approvare un percorso che ha portato questo governo, anche sono molto critico rispetto alla gestione, soprattutto del nostro lavoro in Parlamento, perché se ci sono le larghe intese al governo, ciò non significa che noi dobbiamo sempre votare qualcosa che non ci piace in Parlamento. Insomma, ieri sulla scuola c'è stato un attimo di imbarazzo, sull'obiezione di coscienza, la 194, abbiamo votato alla tipo macchie del giaguaro, c'erano tutte le lucine che si illuminavano sul tabellone in modo diverso all'interno del gruppo del PD. Settimana prossima ci sono gli F-35, insomma ogni settimana. Gli F-35 lei ha un dialogo molto aperto con i 5 Stelle. Sì, tra l'altro me ne sono sempre occupato, come tanti amici anche di SEL e tantissimi anche all'interno del PD. Le firme sotto quella mozione sono innumerevoli, spero che non telefonino, perché fanno così, telefonano durante la notte per farcele ritirare le firme. Telefona alla segreteria? Telefonano i capi, quelli, i capi del partito, quelli influentissimi e furbissimi, come è successo con Giachetti, no? Avevamo 100 firme, nel corso delle ultime ore siamo arrivati a 50, insomma soffrendo. In verità lì ce ne sono 158, se non ricordo male, sono tantissime e vuol dire che c'è un problema. Ma questo nuovo corso Epifani, adesso ci sarà il congresso, quindi finalmente vi chiarirete? No, nuovo corso direi proprio di no, il corso fa rima con Bersani e per quello sono la stessa persona. Il congresso lo stanno spostando con trucchi vecchi come il mondo, quindi ci ha messo un mese a fare la segreteria, un lavorone, un altro mese a fare le regole del congresso, che vedrà, le faccio una profezia, cambieranno pochissimo perché si renderanno conto che non riescono nemmeno a cambiare le regole. Dopodiché il congresso si farà, invece che a settembre durante l'estate, si farà a ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, eccetera. Se ne va via dal PD? No, mi candido a fare segretario sulla base di un progetto un po' diverso da quello che a cui stiamo assistendo, diciamo, perché partecipare è una parola grossa. E questo era Pippo Civati. C'è chi mi dice: ma perché non dite che il Movimento 5 Stelle era in aula questa mattina? Io sono andata a verificare, Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle ha detto che della Commissione Esteri, quelli del Movimento 5 Stelle c'erano tutti, per gli altri non, a deputati 5 Stelle non posso dire, perché ha detto e dice pure lui c'erano le commissioni. Allora io vi saluto, un saluto da Elisabetta Fiorito.